America 24 di Mario Platero. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. La rabbia è il simbolo stesso della rabbia, questo che avete ascoltato è un estratto da uno speciale televisivo degli anni 70, la NBC 1976, Mad as Hell. La protesta era per la depressione, questo signore invita tutti quelli che lo ascoltano in una diretta televisiva a affacciarsi alla finestra ed esprimere la loro straordinaria rabbia. Ebbene, questo è un pochettino quello che è successo in Massachusetts, dove ha vinto Scott Brown, ha vinto un repubblicano semi sconosciuto. Sentiamo cosa dice Britt Hume, uno dei più importanti commentatori americani, di questa vittoria di Brown. I think this is huge and it will extend well beyond healthcare. Anybody running, Democrat or Republican, for Congress this year. È una cosa enorme, dice Britt Hume, e un risultato elettorale che andrà a colpire ben al di là della riforma sanitaria. Se un uomo sconosciuto, semi sconosciuto come Brown riesce ad affermarsi in questo modo, beh, c'è una notizia politica importante. Tutti i candidati democratici, guardando a novembre, dovranno essere preoccupati da quello che è successo. L'errore di fondo dei democratici è stato quello di non essersi accorti che, anche se Barack Obama aveva vinto le elezioni molto bene nel novembre del 2008, e questo non significava che il presidente avesse avuto anche un mandato per una virata sinistra. E invece c'è stata proprio questa confusione. L'amministrazione ha virata sinistra, il congresso era dominato dalla leadership liberal della sinistra del partito, Nancy Pelosi, Harry Reid, e dunque c'è stato uno scollamento tra quello che era il centro politico del paese, saldamente ancorato al centro-centrodestra, è quello che poi hanno fatto invece i democratici. Abbiamo con noi Margaret Warner, senior correspondent per la PBS News Hours. Margaret, hi, how are you? Hello Mario, but I would say central. President Obama's problem has been that he... Margaret, come sentite, ci dice proprio questo, conferma che i democratici si sono scollati dal centro, però osserva che Obama forse era un uomo di centro e anche lui, tutto sommato, è stato coinvolto dalla confusione che ha preso in modo irreversibile la leadership democratica del partito in congresso. As a result, he never... Ecco, Margaret continua a spiegarci quanto forte sia stato l'intervento dello Stato nel tentativo di migliorare la situazione economica. Ci sono stati aiuti per le banche, ci sono stati aiuti per il settore automobilistico, c'è stato un enorme intervento del governo in quasi tutti i settori che toccano il cittadino, e questa situazione però poi non ha portato a un miglioramento, e dunque, conclude Margaret, la gente, proprio come abbiamo ascoltato nello special televisivo CBS del 76, quando si urlava I am fed up, I am mad as hell, la gente dice è di pessimo umore. Di un umore simile sono stati i mercati. Ieri Wall Street ha chiuso in ribasso, il ribasso peggiore infatti del 2010, meno l'1,14% per il Dow Jones, meno 1,20% per il Nasdaq. Pesano le preoccupazioni in particolare di certe attività, di certe decisioni del governo cinese su prestiti che potrebbero mettere a repentaglio la ripresa economica. Ma ci sono stati dei cali su molti titoli importanti, IBM meno 2,90%, una trimestrale deludente di Morgan Stanley, e comunque in generale le banche dominano, anche perché il conflitto tra amministrazione e istituti bancari permane. L'opinione pubblica è anche molto arrabbiata con le banche, che sono riuscite a mettersi da parte una gran quantità di profitti e a distribuirsi dei bonus miliardari. E sentiamo che cosa questo cantante si è inventato come canzone di protesta proprio contro le banche. So I'm gonna say the three magic words here. I hate banks, y'all say that. Don't like them. Umori pessimi in politica, dunque, mad as hell, la rabbia che ha portato al voto del Massachusetts, il risentimento nei confronti delle banche. Per fortuna che c'è l'arte che aiuta a rasserenare gli animi. Siamo al Metropolitan Museum, dove si è appena inaugurata ieri una mostra dedicata al bronzino. È la prima volta che c'è una mostra di questo genere al Metropolitan, ben 59 disegni sui 63 conosciuti. Ma sentiamo cosa ha da dirci Tom Campbell, il nuovo direttore del Metropolitan. In total, over the last 40 years... In 40 anni, dice Campbell, 85 mostre sono state dedicate ad artisti italiani e ci parla naturalmente anche delle città con cui il Metropolitan ha avuto rapporti. Rome, Venice, Florence. Ma oggi resta la giornata del bronzino e Campbell ce ne parla ampiamente. We open a really a groundbreaking exhibition. Una mostra, dice Campbell, che il Metropolitan in forma innovativa ha cercato di organizzare con Palazzo Strozzi e ci è riuscito. Il tutto comincia 3 anni fa quando il Met e Palazzo Strozzi a Firenze si accorgono di lavorare insieme a un progetto simile. E dunque sentiamo cosa ha da dirci a proposito di questa mostra James Bradburn, il direttore di Palazzo Strozzi a Firenze. Io sono andato a New York per parlare della possibilità di immaginare in un senso un anno di bronzino, nonostante il fatto che non c'è nessun anniversario a celebrare, è un anno 2010 in cui ci sono 3 grandi mostre di bronzino nel mondo. Ecco, la mostra del bronzino a Firenze sarà più completa di quella del Metropolitan, avrà anche dei dipinti oltre ai disegni e curiosità, si occuperà anche di poesia con un concorso speciale. Infatti il titolo della mostra a Firenze è Bronzino, artista e poeta. Abbiamo scoperto tante diverse poesie di Bronzino e deciso di fare un concorso online durante la mostra a Metropolitan per tradurre in inglese la poesia del Bronzino. Poesia del Bronzino, arte, disegni, naturalmente non poteva mancare la musica. Noi, la Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze, commissionato un pezzo di musica manierista contemporanea di un componista americano newyorkese, Bruce Adolph, e questo pezzo di musica avrà la sua premiera mondiale al Metropolitan Museum durante la loro mostra su Bronzino dei disegni. Prima mondiale al Metropolitan, anteprima su America 24. Siamo in grado di farvi ascoltare un breve brano di questa nuova composizione che è stata appunto commissionata per questa straordinaria occasione. Questi allestimenti artistici hanno ovviamente dei costi esorbitanti e Tom Campbell, ricordiamolo, direttore del Metropolitan Museum, è molto grato a chi in Italia, soprattutto grandi aziende, ha sponsorizzato molte delle mostre del grande museo americano. I should say fundamental to all of these exhibitions. L'accento di Campbell non è perfetto, braccio vuol dire in realtà bracco. La compagnia farmaceutica italiana ha sponsorizzato una delle mostre più importanti al Metropolitan negli ultimi anni. E poi menziona e ricorda la Fondazione per la Cultura in Italia e in America, la fondazione organizzata da Daniele Budini, guidata da Alain Elkane. Bene, questa fondazione ha introdotto una formula nuova, porta opere in zone decentrate, ha portato a Reno e Nevada La donna velata di Raffaello. Ce ne parla Renato Miracco, ex direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a New York e oggi uno dei maggiori operatori culturali italiani in America. La mostra di Raffaello a Reno, secondo me, è molto interessante. Poter promulgare, diciamo, l'arte italiana su tutto il territorio americano, secondo me, è una delle mission dei prossimi anni. Ecco, qual è questa fondazione che l'ha fatto? È la FIAC, il cui presidente è Daniele Bodini, che è specializzato nel poter portare un quadro, un one man show in America. Un consiglio per migliorare il rapporto culturale fra Italia e Stati Uniti? Sedersi a tavolino e capire quali sono le esigenze del mercato americano, quindi non pensare di poter esportare una mostra perché ci piace. No, ci sono delle esigenze precise, il pubblico americano richiede delle cose precise, richiede un'attenzione verso un tipo di italianità. Se pensiamo che, per esempio, come input la National Gallery di Washington per i prossimi 3 anni ha 10 mostre italiane in cantiere. Allora le cose funzionano, questo è molto interessante. Funzionano senza capitali italiani, come America, non come Italia. Ci sono 1000 altre notizie, pettegolezze, idee da questa costa atlantica che vive tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Eccone alcune di queste notizie. Più leggi, più paghi. A partire dal 2011 sarà questa la filosofia del New York Times Online, che dice basta agli articoli gratuiti per far fronte ai costi. Il tormentone Clooney Canalis, l'ex velina, ora vuole un figlio dal fidanzato, meglio se entro il prossimo Natale. Ed eccoci al finale, alla nostra canzone del giorno. Rihanna, protagonista delle pagine di Gossip, partecipa alla gara di solidarietà per i terremotati. Sarà a Hope for Haiti, lo show di venerdì prossimo per il paese caraibico. Ieri un'anteprima all'Oprah Winfrey Show, dove ha cantato Redemption Song, scritta da Bob Marley nel 1979, proprio quando gli fu diagnosticato il cancro. La canzone si può scaricare da internet sul sito Rihanna Now e Oprah.com, e i proventi andranno all'UNICEF e Croce Rossa per aiutare Haiti. So won't you help to sing these songs of freedom? That's all I ever had. Redemption song. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.